1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Italiani, la 98esima settimana decisiva per la riforma elettorale, l'abolizione delle province è cominciata ufficialmente. E allora dovete darvi una mossa anche voi, settimana numero 98. No, stavo dicendo 28. 98 di questa legislatura per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Dai, dai, lo schema Allegri a palla, dai. Allora, oggi parleremo con Mario Giordano, che ha scritto il libro Pesce Cani, è un nuovo libro in cui racconta l'Italia di coloro che fanno un po' di soldi mentre l'Italia affonda e sono un po' impuniti. Ci racconterà chi sono questi pesce cani. Avremo tra l'altro ospite ancora Sergio Scarpellini, colui che affitta al Parlamento un po' di palazzi da vari anni. L'avevamo un venerdì, siccome è citato nel libro di Giordano, lo abbiamo reinvitato anche per oggi. E poi avremo ospite Alessandra Moretti, che, di cui si parla meno per la candidatura in Veneto, ma dopo che Tosi si è candidato, dopo che c'è Zaia, chissà se Alessandra Moretti gongola e ora spera così di approfittare di questa spaccatura nella Lega per vincere lei in Veneto. Cercheremo di capirlo alle 8.40, ora i giornali. In questo lunedì 16 marzo, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre, come abbiamo sentito nel giornale radio, sulla casa, l'altalena dei prezzi lancia la caccia agli affari, questo è il titolo di prima pagina. Poi ci sono gli assalti alle chiese, il Papa accusa, così il Corriere della Sera. Per la stampa, strage di cristiani, il Papa, fermateli. Il pugno del Papa, invece, è il titolo del giornale. Repubblica, invece, ha un'intervista al ministro alla pubblica istruzione, alla pubblica amministrazione, Madia, che dice lo Stato licenzierà i dirigenti inadeguati. La CGIL gela Landini, è il secondo titolo principale. Per il Messaggero, sindacati, scontro sulla riforma. Queste le aperture del lunedì, ma il vero scontro che è trattato in tutto il mondo, non nei giornali italiani, è quello che vede protagonisti Dolce & Gabbana, gli stilisti che l'hanno combinata, secondo alcuni, davvero grossa. Hanno fatto un'intervista a Panorama e hanno detto in pratica che non sono a favore dei figli per gay. Apriti cielo, è partito il boicottaggio mondiale con alcune star capitanate da Elton John, che si è arrabbiato tantissimo, ha detto: come fate a definire sintetici i miei figli, visto che gli stilisti avevano parlato di bimbi della chimica, i bimbi per gli omosessuali. Elton John, siete arcaici. Come fate a dire che i miei figli sono sintetici, i miei meravigliosi figli? Vergognatevi per aver puntato il vostro piccolo dito contro la fecondazione in vitro, un miracolo che ha consentito a moltitudini di persone, etero od omosessuali, di realizzare il loro sogno di avere figli. Il vostro pensiero arcaico è fuori tempo, proprio come le vostre creazioni di moda. Non indosserò mai più nulla di Dolce & Gabbana. E poi è partito il boicott Dolce & Gabbana, queste cose che vanno di moda su Twitter a proposito di moda. Courtney Love, per esempio: ho raccolto i miei vestiti Dolce & Gabbana e li voglio bruciare tutti. E poi si distingue tra questi Ornella Vanoni. Sentite Ornella Vanoni: sono indecisa se buttare il mio Dolce & Gabbana cappotto di cincillà, se bruciarlo o darlo al barbone Antonio in centrale. Intanto, se proprio devi disfartene, darlo al barbone Antonio, che magari ne ha bisogno, invece di bruciarlo. Cara Ornelluccia, mi verrebbe da dire. Martina Navratilova: wow, non ne avevo idea, bisognerà vedere se queste sciocchezze faranno male al loro conto in banca. Insomma, è partito un boicottaggio mondiale, soprattutto da parte di queste guest star, al quale boicottaggio risponde Stefano Gabbana con un'intervista oggi al Corriere della Sera. Noi due abbiamo sempre vissuto la nostra sessualità privatamente, non abbiamo mai gridato. Adesso ci mettono in bocca parole non nostre. Saremmo contrari alle adozioni gay, ma non è vero. Domenico Dolce ha semplicemente espresso la sua opinione sulla famiglia tradizionale, sulla fecondazione assistita. Altri fanno scelte diverse, liberissimi, ma noi pretendiamo lo stesso rispetto. Ed eccolo qui Stefano Gabbana. Cosa ha pensato quando ha letto la reazione di Elton John? Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo da una persona che ritenevo, e sottolineo ritenevo, intelligente come Elton John. Ma come? Predichi comprensione, tolleranza e poi aggredisci, tutto perché qualcun altro la pensa in modo diverso da te. E questo sarebbe un modo democratico di ragionare. Illuminato è un ignorante. Così. Stefano Gabbana di Elton John è un ignorante, nel senso che ignora che esistono pensieri diversi dal suo, ugualmente degni di rispetto. Ma l'ha sentito? Inutile. Quello è un modo autoritario di vedere le cose. Se sei d'accordo con me, bene, altrimenti ti attacco. E gliel'ho scritto: fascista. Insomma, siamo veramente alla rottura dei rapporti tra Dolce Gabbana e Elton John e gli altri. E vabbè, chissà cosa succederà. Tutti i giornali parlano, dedicano almeno una pagina, se non due pagine, a questo rapporto interrotto ormai tra Dolce Gabbana, Elton John e altre star internazionali. Va bene, vedremo se ci saranno sviluppi e anche possibili ripercussioni economiche. Mentre è tornato Gino Paoli, è riapparso al primo concerto dopo le polemiche per la presunta evasione fiscale, i milioni trovati in Svizzera, Repubblica, il ritorno di Gino Paoli tra silenzi e applausi, ma sui soldi in Svizzera noi fan siamo delusi. Simona Poli va a massa, lo fa anche Renato Tortarolo per il Secolo XIX, racconta non tanto il concerto, la cosa più importante non è il concerto di Gino Paoli, quello che lui fa sul palcoscenico, ma le reazioni del pubblico, dei suoi fan che lo ascoltano. Ed ecco qui allora con Repubblica Simona Poli, fine di una lunga storia d'amore, dice la signora Tea, eccone un altro che non paga le tasse. Mi è proprio crollato un mito, pure uno di sinistra, che delusione, chiosa anche Pierino, vecchio comunista. Eh no, cara mia, io sono di sinistra se permetti, sbotta arrabbiato, e le tasse le pago tutte, porca miseria, mica porto i soldi in Svizzera io. Ecco, commenti ovviamente raccolti tra gli spettatori. Gino Paoli non fa alcun cenno alla vicenda. Inizia lo spettacolo, come racconta il Secolo XIX, solo due parole per spiegare questo spettacolo. E anche il giornalista dice: chissà cosa ci aspettavamo, una confessione, una protesta, indignazione, scuse. E invece niente, e inizia il concerto. Alla fine, racconta Repubblica, lo raggiungono quelli delle Iene, si avvicina una Iena e dice: Gino Paoli, Padoa Schioppa diceva che pagare le tasse è bellissimo, che ne pensa lei? E lui va via e poi si gira e sibila un ma vaffanculo e se ne va. Aveva detto però Gino Paoli che sarebbe stato aggressivo a chi gli fosse andato vicino rinfacciandogli queste cose. Va bene, vi devo segnalare, voi che siete, lo so, schiavizzati da Candy Crush, io ci gioco. Tu a che livello sei, caro Carmelo Lauricella? Non ci giochi, fai finta di non giocare. Io sono al livello 382, credo, ma faccio fatica a superare il livello 382. Comunque oggi c'è un'intervista su Repubblica, anche perché, scusate, parentesi, sono uno di quelli che non chiede viti, aiuti, cioè, me lo faccio tutto da solo, se ce la faccio bene, se no rimango lì e mi incaponisco per mesi e mesi a un livello. Comunque è su Repubblica, pagina 31, c'è un'intervista a Riccardo Zacconi. Forse non lo sapete, ma è italiano. È colui che ha costruito un impero che racchiude anche Candy Crush. Racconta Enrico Franceschini: Candy Crush è nata sotto la doccia. Ora ci gioca 500 milioni di persone nel mondo. Uno dei suoi maghi ha avuto la visione del gioco delle caramelle mentre faceva la doccia? Ebbene sì, più o meno, stava facendo il bagno in realtà, come l'eureka di Archimede. Perché proprio Candy Crush è diventato il gioco numero uno del pianeta? Perché è il più bello, risponde Zacconi. Si può giocare gratis, perché per velocizzarlo o ricevere bonus bastano micro pagamenti di pochi centesimi, perché puoi giocare contro gli amici e naturalmente perché abbiamo Facebook come partner. Comunque racconta la sua vita: io, figlio di un dentista, avessi fatto il mestiere di papà, avrei saputo in anticipo come sarebbero stati i miei successivi 50 anni, ma dalla vita volevo imprevisti. Mi sono laureato in economia e commercio, ho cominciato a fare consulenze aziendali in Germania, mi sono specializzato nel settore di internet e poi sono finito a Londra. E qui c'è un racconto dalla sede di King, la startup fondata nel 2002 da Riccardo Zacconi, quotata anche a Wall Street per un valore iniziale di 7 miliardi e mezzo di dollari, il più ricco ingresso in borsa della storia per una società britannica, e raccontata in questo viaggio di Repubblica di Enrico Franceschini, che entra nella sede di King, che tra gli altri ha appunto ideato Candy Crush. Va bene, siamo al momento della carta. No, la carta costa dopo. Mani sul volante, se siete alla guida, se siete arrabbiati, già che è lunedì, c'è pur sempre l'Inter che ti risolleva il morale, anche se è lunedì, però è lunedì, vi capisco, e quindi siete già un po' così nervosi, state friggendo nelle vostre code o nelle vostre colazioni trafelate per andare a lavorare. Eccolo qui allora, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata è quello di Antonio Calitri sul Messaggero: sprecopoli delle regioni, Valle d'Aosta batte tutti. È un'analisi del portale soldipubblici.gov.it per scoprire alcune cose. Per esempio, perché in Valle d'Aosta si spendono per i convegni 5 volte quello che si spende in Lombardia, che è una regione un pochino più grande? E che dire del Friuli Venezia Giulia, che per le indennità, missioni e rimborsi viaggi ha speso nel 2014 €1.300.000, meno della Valle d'Aosta, ma il doppio del Piemonte, che è ben più grande, che ha speso solo €743.000, la sprecopoli delle regioni. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, etichetta Rossoneri, il conduttore che crea un'atmosfera. Beh, mica male questa che abbiamo recuperato. Anche un ascoltatore mi scrive: anch'io sono al livello 382 incaponito lì di Candy Crush. Vabbè, non è che leggere l'intervista oggi al fondatore di Candy Crush vi aiuti a passare qualche livello. Io non ho neanche mai speso mezzo centesimo, devo dirlo. O ce la faccio con le mie forze oppure morirò lì, al livello 382. Questo lo dico chiaramente. Comunque, cari ascoltatori, tornando alla questione politica, ecco, non vorrei che già associarlo alla politica, Landini, no, non dovrebbe arrabbiarsi, perché ha sempre detto il sindacato deve fare politica, ma non voglio fare un partito. Ieri lo ha ribadito da Lucia Annunziata. Ancora non mi credono, racconta pagina 6 della Stampa Landini. Non voglio creare un partito, non esco dal sindacato, ma il sindacato deve essere un soggetto politico, deve discutere alla pari. Mi chiedete ancora se voglio scalare la CGIL? Penso che sia in corso una discussione, penso anche che il sindacato debba cambiare profondamente. Ne parleremo alla conferenza di organizzazione CGIL. In realtà la Camusso ha fatto sapere ancora: non eravamo stati informati da Landini della volontà di fare niente dal punto di vista politico. Landini dice: non voglio fare un partito. Ieri sul Fatto Quotidiano il titolo d'apertura è Landini l'anti-Renzi. È lui allora, secondo voi, l'anti-Renzi? Con i lavoratori cambierò il paese. Camusso però gela Landini: ero all'oscuro di tutto questo. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Tra l'altro la Stampa fa anche un bel profilo di quello che è il rapporto Landini-Renzi, perché ricordate che fino a qualche tempo fa andavano d'amore d'accordo, anzi si diceva, d'amore d'accordo forse ho esagerato, però si diceva che Renzi fosse l'uomo della CGIL, della FIOM, quindi CGIL, più vicino a Renzi, altro che Susanna Camusso, e quindi poteva essere, come dire, quello con cui dialogava di più, Fabio Martini lo ricorda, pagina 7, si erano tanto amati, ora bisticciano, nulla potrà tornare come prima. Matteo Renzi e Landini, dalla fine del 2013, per quasi un anno, hanno coltivato una stagione di pubbliche riverenze, di privatissimi colloqui, condividendo una comune filosofia basista anti-elite. Poi, alcune settimane fa, sul Jobs Act, il leader della Fioma ha interrotto le danze, attaccato aspramente Renzi, ricevendone in cambio repliche acuminate. L'ultima, davvero cattiva, pronunciata da leader del governo: non credo che Landini abbandoni il sindacato, è il sindacato che ha abbandonato Landini, la frase celebre di Renzi. In realtà, sotto traccia, raccontano i giornali, c'è l'ipotesi di che siano delle baruffe chiozzotte, così, delle baruffe un po' per l'opinione pubblica. Renzi che vuole rivedere l'articolo 49 della Costituzione, quello che prevede che tutti i cittadini abbiano diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, e anche l'articolo che riguarda invece i sindacati, vorrebbe proprio offrire a Landini la legge sulla rappresentanza dei sindacati, per l'appunto, e dunque in realtà è un metodo così per cercare, anche se in questo momento si battibeccano molto, per cercare di avvicinarlo. Ecco qui per esempio Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera, pagina 11, sulle nuove regole: il governo vuole mediare, convocheremo i sindacati. Gli altri giorni, nei giorni scorsi, si era balenata l'idea di cambiare appunto l'articolo 49 sui partiti, l'articolo sui sindacati, ma stavolta, dice il Corriere, Renzi vuole frenare, non vuole attaccare a testa bassa con un disegno di legge sulla rappresentanza. È una sfida culturale, dice Renzi ai suoi, lanciamola a chi lamenta mancanza di democrazia nei partiti. In realtà si tratta di due treni, Renzi e Landini, che viaggiano su binari diversi, probabilmente procederanno anche a velocità diverse. Insomma, la domenica, si sa, ci sono le dichiarazioni e le interviste, il lunedì i giornali si animano di queste polemiche politiche. C'è Cacciari, intervistato dalla Stampa, che dice: Landini è un simpatico tribuno, ma non mette d'accordo la sinistra. L'iniziativa di Landini mi entusiasma? Dovrebbe, risponde così Cacciari col suo tono sempre molto serafico. Landini mi è molto simpatico, quando parla della classe operaia mi scatta una nostalgia irresistibile, ma non ha capito che il mondo è cambiato. Così sentenzia Cacciari. Vabbè. Oggi però c'è un'interessante intervista al ministro della pubblica istruzione. Sì, lo chiamo sempre la pubblica istruzione, chissà perché, la voglio mettere lì. No. Alla pubblica amministrazione pubblica, la funzione pubblica, gli statali, eccolo qua. Marianna Madia viene intervistata da Roberto Mania su Repubblica, pagina 2-3, e annuncia: saranno licenziati i dirigenti pubblici inadeguati. Un dirigente pubblico inadeguato potrà essere licenziato. Intanto una premessa, dice il ministro Madia: noi non diremo mai che una riforma non sia realizzata perché qualcuno non l'ha attuata. No, questo governo si assume la responsabilità politica dell'attuazione. Detto ciò, la nostra riforma è una riforma anche della dirigenza pubblica. Il dirigente dovrà superare un concorso per l'abilitazione, entrerà così nel ruolo unico dei dirigenti della Repubblica Italiana e non, come adesso, dirigenti della singola amministrazione o di una regione, ma dirigenti dello Stato, della Repubblica. Dovrà esserci un rapporto osmotico tra i dirigenti dei diversi livelli di Stato. Si potrà passare dal centro alla periferia o viceversa. Prevediamo l'istituzione di una commissione super partes composta da tecnici che deciderà quali sono i dirigenti adatti per un determinato incarico. E chi non sarà confermato decadrà e tornerà nel ruolo unico in attesa di un nuovo incarico. Potrà anche andare a lavorare temporaneamente nel privato, ma se dopo un congruo periodo che escluda qualsiasi ipotesi di fumus persecutionis, un dirigente continuerà ad essere senza incarico, perderà l'abilitazione fino a perdere il lavoro. Ed eccola qui la domanda chiave, cioè mi sta dicendo che potrà essere licenziato un dirigente pubblico? Sì, è la risposta secca del ministro Madia, che poi dice: per gli statali non si applicherà il Jobs Act, ora soldi per i contratti. Così il ministro Madia, intervistata da Repubblica. Oh, a proposito invece di Roma statali, beh, sapete che l'annuncio del giubileo straordinario del Papa ha spiazzato un po' tutti ora a dire come si farà questo giubileo, chi lo deve fare. Beh, si sta già litigando, secondo Palazzo Chigi ci vuole un commissario, si pensa al capo della protezione civile Gabrielli. Secondo Marino, cioè il sindaco, l'organizzazione spetta al sindaco e dunque al comune di Roma e dunque non ci vogliono commissari, stanno già litigando. Il Papa ha annunciato il giubileo e già si litiga. Sentite qui per esempio il sottosegretario alla funzione pubblica Rughetti, intervistato dal Messaggero: anche il Vaticano paghi una parte dei costi. Dice anche Rughetti: il commissario stavolta è superfluo, ma sui costi dice: credo che le due parti, Città di Roma e Stato Vaticano, debbano incontrarsi laicamente per fare un'analisi della ricaduta di questa scelta, rendersi conto degli effetti. Allo stesso modo, secondo me, Roma ha il diritto dovere di dire ai comuni della provincia e alla regione qual è il modo per gestire insieme dentro questo spazio i criteri e le regole del finanziamento. Anche il Vaticano dovrebbe contribuire, questo fa palesare il sottosegretario Rughetti, intervistato da Andrea Bassi sul Messaggero a pagina 5. Si parla di tassa di soggiorno da aumentare, o meglio l'incremento degli incassi per la tassa di soggiorno, perché arriveranno, no, non da aumentare la tassa, incrementeranno ovviamente gli incassi per l'arrivo di molti fedeli, e quindi da qui si recupereranno anche molti soldi per il giubileo. Staremo a vedere. Comunque, ricordatevi, anche se a lunedì siete sempre un po' stropicciati, inizia la settimana un po' così, c'è pur sempre l'Inter. L'Inter è sempre lì a dare qualche soddisfazione, come conferma Mauro Meazza con noi. Buongiorno Mauro. Buongiorno, chiedo scusa, la mia voce è un po' stropicciata questa mattina. Perché anche ho avuto appunto da incitare la mia squadra, ma come dire, non è stato così come ci siamo augurati, ma c'è sempre il Milan questa sera, quindi questo anche non c'è dubbio, possiamo anche risentirci domani con comodo. Vedremo. Invece ti vorrei segnalare, per quanto riguarda le tue spesucce in Italia, di consultare avidamente l'esperto risponde oggi in edicola con il Sole 24 Ore, perché ci occupiamo delle soglie del contante, sai, i 1.000 euro, l'antiriciclaggio, eccetera. Allora, per sapere come ti devi comportare, per non fare pasticci, caro Alessandro, puoi consultare oggi l'esperto risponde, come tutti i lunedì in edicola con il Sole 24 Ore. Oh, vuoi cambiare finalmente casa? Potrebbe essere il momento. E infatti oggi, insieme, utilizzando i dati di Focus Città, che è un servizio che abbiamo sul nostro sito all'interno di Casa 24, ti segnaliamo appunto questo momento interessante nel mercato immobiliare, città per città, con le varie quotazioni. Vediamo dove rispetto al 2009 i prezzi sono scesi di più, dove sono scesi di meno, quindi dove potrebbero esserci le occasioni migliori anche per te, se ti decidi con sti due eurini a investire nel famoso zerbino. Sei conciato a sbatter via proprio, Mauro? Ho avuto, diciamo così, da utilizzare pesantemente le mie corde vocali ieri, e quindi come dire, oggi non posso essere nella forma abituale. Contro nessuno. Sempre per qualcosa, mai contro, ci mancherebbe altro. Volevo dirti che se tu tiri fuori i tuoi 2 milioni di eurini che hai in giro, non ho capito neanche più dove a questo punto, perché paradisi fiscali non ce ne sono moltissimi. Se tu volessi tirarli fuori, sappi che mentre tu ed io eravamo in tutt'altre faccende affaccendati nel fine settimana, sul Sole 24 Ore abbiamo descritto le istruzioni delle entrate, la famosa circolare sulla voluntary disclosure, si può anche dire rientro dei capitali, però. Allora, di questa circolare parliamo anche oggi, specialmente di cause ostative. Bene. Tu magari non sei così travolto dall'interesse su questo aspetto, ma ti assicuro che è invece un aspetto molto interessante. Trovi oggi appunto il nostro rientro, dopo le descrizioni che abbiamo dato sabato e domenica, sulla circolare delle entrate in materia di voluntari di sport. Allora Mauro, facciamo tanti auguri alla Fiorentina per chiudere. Tanti auguri, sì, tanti auguri a Milan anche, e poi niente, ti volevo dire che se hai in casa un jukebox magari potrebbe anche valere qualcosa, ma scopri tutto su Risparmio e Famiglia oggi sul Sole. Basta, vado a fare qualche cura per le mie corde vocali così da poterti dileggiare con comodo domattina. Traffico! Alessandro Milan, il Rossello Brescio dell'informazione. Ebbene sì, ebbene sì. Ah, tra l'altro Rossella Brescia deve tornare al Parlamento alle 6.30, presto, non se ne può più. Faccio un appello pubblico a RDS, rimollateci Rossella Brescia per una mattina. Forza! Egoisti! Allora, intanto continua la vicenda Ruby Berlusconi. Ieri è stata la volta del procuratore di Milano Edmondo Bruti Liberati a fare un'intervista a Sky TG24, credo dalla Latella è andato, a dire che l'indagine era doverosa, i costi sono stati limitati e sono stati attacchi vergognosi nei confronti dei procuratori, dei PM di Milano. Il giornale la vede così, eccolo il soccorso rosso di Bruti alla Boccassini sconfitta. In realtà, a proposito di sconfitta, Bruti ha ricordato una cosa che dovrebbe essere abbastanza normale, ma in Italia di normale non c'è nulla, soprattutto su queste vicende, e cioè a dire che i PM non vincono o perdono i processi, fanno le indagini, le portano all'analisi dei giudici, ma in Italia si sa, come ho detto in maniera un po' più forte la scorsa settimana, soprattutto per le vicende giudiziarie di Berlusconi, vale il tifo da stadio da 20 anni, e quindi per questo ho certificato che siamo un paese non proprio al massimo come giudizio. Va bene, vi segnalo una bella analisi su Repubblica, pagina 12 e 13, sull'ISIS, perché spesso si racconta, beh, ma cos'è l'ISIS? Repubblica oggi ospita una analisi di Greenwood di Atlantic Media. Dall'Islam all'Apocalisse, l'anatomia del califfato, ecco cos'è, ecco cosa vuole, ecco come si può sconfiggere. Ovviamente è un'analisi e sono opinioni, però come è nato, che parte di mondo controlla, pensate, controlla ormai lo Stato Islamico, ovviamente a macchia di leopardo, una zona, un territorio più esteso del Regno Unito. Il suo leader, sappiamo, da maggio del 2010 è Abu Bakr al-Baghdadi, di cui sino all'estate scorsa circolava una sola immagine, una foto segnaletica sfocata che risale all'occupazione dell'Iraq quando fu detenuto dagli Stati Uniti a Camp Bucca. Poi il 5 luglio 2014 al-Baghdadi è salito sul pulpito della grande moschea di Mosul per pronunciare un sermone del Ramadan. In quel discorso, il primo del genere tenuto da un califfo da molte generazioni, al-Baghdadi ha messo a fuoco i suoi propositi, non più sfocati ma precisi. E racconta Greenwood che per certi versi la nostra ignoranza sullo Stato Islamico è comprensibile, visto che si tratta di un regno eremita nel quale pochi sono andati per poi tornare e raccontarci di che cosa si tratta veramente. Comunque un'analisi interessante, proprio nel giorno in cui anche il Papa ha urlato la sua collera, certo non in toni urlati, ma ha urlato il suo basta dopo l'ennesimo attentato che c'è stato questa volta in Pakistan contro cristiani. Due kamikaze imbottiti di esplosivo che cercano di entrare in due basiliche cristiane a Lahore vengono fermati dai volontari all'entrata e quindi si fanno esplodere lì. I feriti sono decine, si parla di un'ottantina di feriti, si parla di almeno 15 morti, due kamikaze all'ora della messa. La folla lincia gli altri assalitori, perché erano più di due kamikaze, e il Papa che dice ora basta. Questo lo trovate ovviamente su tutti i giornali, per alcuni quotidiani come il Corriere della Sera addirittura è l'apertura. Qualche notizia di cronaca vi voglio segnalare. Beh, intanto c'è la professoressa più brava del mondo. Ecco, so che sono classifiche sempre difficili da fare, ma è una professoressa americana, Nancy Atwell, 63 anni, insegna in una scuola fondata nel Maine, a lei, come racconta Riccardo Luna, pagina 25 di Repubblica, dedica a lei una pagina, ha vinto, lei ha vinto il Nobel, premio Nobel per la scuola, che è stato assegnato a Dubai. Le è stato consegnato tra l'altro un premio da $1,000,000 da spendere in 10 anni a questo Global Teacher. Partecipavano anche due italiani, Daniele Manni e Daniela Boscolo, avrebbero potuto vincere quindi loro questo Nobel della scuola. Qual è il segreto di questa insegnante americana? Dice: ho fatto un sistema, ho elaborato un sistema di insegnamento che è mio. Non l'ho trovato da nessuna parte. Lo racconta ovviamente in questa pagina di Repubblica, e poi ci tiene a dire: i miei ragazzi leggono 40 libri l'anno. 40 libri l'anno, in media in Italia si legge un libro, forse neanche a testa. Va bene, dell'Inter abbiamo detto, tralasciamo, ma siamo al momento della carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali oggi, no! Partono adesso le mezze pagine, in questo caso del Corriere, Maria Serena Natale su Lady Varoufakis. No, ci hanno ammorbato con Varoufakis e adesso chi è Lady Varoufakis con le sue foto dal terrazzino di Atene? Lady Varoufakis. Ma chi se ne frega!